boy, boy, si di mare. Hang mare akhiyan re, koi koi si di mare. Aage piche mere chore, phirte hain sare. Main hoon patli patang, mera gora chitta.